Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Vogliamo definire bambinata, forse. Bambinata? Forse il termine. Uno stupro di gruppo. È successo, è un fatto isolato, purtroppo. Ma lei l'ha detto che è una bambinata. Ma sono tutti minori. Lo so. Dai minori che cosa si può aspettare? Che violentino una ragazza? No, nel modo più assoluto, è successo, ormai è passato. Ormai è passato, dice il sindaco di Piemonte, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, a questo giornalista della Sette che era andato appunto a Piemonte, vicino Napoli, per fare un'inchiesta su questo caso terribile della ragazzina quindicenne che avevo ricordato anche ieri parlando di questi episodi di violenza sulle minorenni da parte di branchi di minori. Questa ragazzina che era stata violentata mesi fa da 12 suoi coetanei. E lei poi per il dolore, la sua psiche completamente devastata, ha deciso con la famiglia di ritornare in Germania, da dove erano venuti, per finalmente riprendere la loro vita in Italia. Avevano avuto promesse di sostegno che non hanno avuto. Allora appunto in questa inchiesta, in questo viaggio che ha fatto il giornalista della Sette, avete sentito il sindaco di Piemonte, di quel paese dove lei è stata violentata, Michele Palummo, che ha detto: ma sì, è stata una bambinata, alla fine cosa ci possiamo aspettare da dei minori? Naturalmente c'è stata una bufera sulle sue parole, anche se poi si è scusato, ma questo purtroppo, come sentirete poi quando saremo in collegamento con il giornalista di La Sette, è purtroppo una mentalità molto radicata lì, ma non solo, diciamo, purtroppo è sempre pervasiva questa, che le vere vittime sono in realtà i violentatori. Poi ci occuperemo di migranti, domani c'è il vertice, fatidico vertice di Tallinn, vedremo se ci saranno effettivamente dei fatti concreti. Oggi il ministro dell'interno Minniti ha parlato alla Camera e ha detto un po' come stanno le cose, sentiremo anche le reazioni politiche, il dibattito politico italiano. Poi c'è Maradona che sta ricevendo a Napoli la cittadinanza onoraria, ma bisogna dire tra colpi di scena e polemiche, di cui parleremo collegandoci direttamente con Napoli. Per i vostri commenti e le vostre opinioni sui fatti principali della giornata, pagina Facebook di Effetto Notte, che è lì per voi giorno e notte, oppure il numero per messaggi e WhatsApp, che è 349-238-6666. Prima di passare a questi temi che in parte vi ho anticipato, come sempre vi riassumo brevemente la giornata. Migranti, l'Austria ci ripensa, niente esercito e controlli al Brennero. Minniti nell'informativa alla Camera dice bene l'appoggio europeo alle nostre proposte. È morto Joaquín Navarro Valsa, lungo direttore della Sala Stampa Vaticana. Tortura, sì, definitivo dell'Aula della Camera al disegno di legge che introduce nell'ordinamento italiano il reato. Lavoro, dai dati Istat emerge che i laureati sono più precari dei diplomati e per la pensione di vecchiaia si va a 67 anni nel 2019. Venezuela, gruppo di chavisti assalta il Parlamento, feriti alcuni deputati. Monte dei Paschi, la scure del piano europeo, 5.500 esuberi e via 600 filiali. Il caso di Charlie, il ministro degli esteri britannico Johnson risponde ad Alfano, dice impossibile portarlo al bambino Gesù, e l'ospedale pediatrico del Vaticano si rifà avanti offrendo una terapia sperimentale. La ragazzina violentata dal branco a Piemonte, bufera sulle parole del sindaco del paese che dice è stata una bambinata. L'addio a Paolo Villaggio, a Roma l'ultimo saluto di artisti, politici e cittadini. Ciclismo al Tour de France, l'impresa di Aru è su alla quinta tappa. E per il calcio, tra colpi di scena e polemiche, stasera a Maradona la cittadinanza onoraria a Napoli. Partiamo quindi dal tema dei migranti, visto che c'è stata la retromarcia dell'Austria e non ci sarà nessuno schieramento di forze armate al confine con l'Italia, come invece ieri il paese aveva minacciato, lo ha chiarito il cancelliere Christian Kern dopo un colloquio telefonico con Gentiloni. L'Italia prende atto e apprezza di questa decisione. Per il presidente del Parlamento europeo Tajani quella di Vienna è una scelta saggia. Il ministro dell'interno Minniti, alla vigilia del vertice di Tallinn, che ci sarà appunto domani, in Estonia apprezza che la Commissione europea abbia accolto le proposte dell'Italia, a cominciare dal codice di comportamento per le organizzazioni non governative che devono, dice, collaborare con la polizia giudiziaria. Il ministro ha annunciato una riunione con i sindaci della Libia a Tripoli per discutere con loro su come sganciarsi dal gioco dei trafficanti di esseri umani. Tra poco ne torneremo a parlare, anche soffermandoci sul dibattito politico interno italiano. È morto Joaquín Navarro Valls, a lungo direttore della sala stampa vaticana e stato portavoce, storico portavoce di Papa Wojtyla. Carlo Marroni, vaticanista del Sole 24 Ore, certo lo può raccontare che figura è stata. Ciao Carlo, buonasera. Ciao Roberta, buonasera. Sì, beh, se ne va un pezzo di storia oggettivamente. Della Chiesa moderna, perché Navarro Valls rappresenta, diciamo, una svolta nella comunicazione. Fino a quel momento, fino alla sua nomina, la Chiesa di fatto comunicava in maniera estremamente istituzionale e di fatto non esisteva un portavoce del Papa. Il Papa comunicava se stesso in quelle rare volte, o comunque non frequentissime. Carlo Wojtyla sceglie questo giovane, lui era un medico, anche se giornalista corrispondente a Roma di ABC, un giornale spagnolo, però è anche psichiatra, infatti ha esercitato anche questa sua professione, lo scelse da presidente della stampa estera nell'84 e da allora, diciamo, possiamo dire che è stata un'accoppiata formidabile nel mondo della comunicazione, quindi ha inventato, diciamo, un genere della comunicazione vaticana, era veramente un portavoce, nel senso che lui frequentava il Papa, poi il Papa, e quindi, diciamo, aveva un ruolo anche, diciamo, superiore a quello di un direttore della sala stampa, diciamo, e poi è stato un personaggio. Lui era uno spagnolo, era un aderente, un numerario dell'Opus Dei, infatti lui poi ha insegnato all'università dell'Opus Dei e quindi, diciamo, se poi un anno, quando fu eletto Ratzinger, lo tenne per un anno e poi dopo nominò Padre Lombardi, che è stato fino a un anno fa poi il successore, diciamo, di Navarro Valls come direttore della sala stampa. Grazie di questo profilo allora di Joaquín Navarro Valls, Carlo Marroni, grazie. Grazie a te, Roberto. Grazie, ciao. Buon lavoro, ciao. E poi c'è, bisogna parlare del reato di tortura, che c'è stato il sì definitivo dell'Aula della Camera al disegno di legge che introduce nell'ordinamento italiano questo reato. Sapete che da tanto se ne dibatteva, il testo è stato approvato alla Camera con 198 voti a favore, 35 contrari e 104 astenuti. I dati Istat adesso: più si studia, questo è il paradosso, più si va incontro ad una prima occupazione atipica, ovvero precaria, diciamo. È il cortocircuito verso il quale sono andate le generazioni più giovani, questo l'ha detto in un'audizione il presidente dell'Istat, Giorgio Alleva, alla Camera dei Deputati. Quanto ai pensionati, si va verso i 67 anni per l'assegno di vecchiaia nel 2019. In base a scenari demografici, nel 2051 si sfiorerebbero i 70 anni, chissà quando poi si arriverà agli 80. Monte dei Paschi di Siena, nel piano di ristrutturazione sono inclusi anche esuberi e chiusura di filiali. E soprattutto un piano di ristrutturazione ed è orientato a riportare la banca in salute e inutile e doveva essere prima approvato formalmente dalla Commissione europea, come è successo. Questa la premessa dell'amministratore delegato di Monte dei Paschi di Siena, Marco Morelli, alla presentazione del piano 2017-2021 agli analisti e dopo il salvataggio arrivano i tagli. 5.500 esuberi che porteranno i lavoratori MPS da 25.000. a 20.000 nel 2021, per circa 4.800 l'attivazione del fondo di solidarietà e la chiusura del 30% delle filiali, circa 600. In 4 anni, e cioè al 2021, l'utile netto tornerà, secondo le previsioni, a 1,2 miliardi di euro. Le sofferenze lorde da dismettere ammontano a 28,6 miliardi lordi. Entro la fine di luglio il governo approverà il decreto attuativo per finalizzare il piano, annuncia l'amministratore delegato Morelli, che aggiunge: stiamo negoziando con la Consob le procedure e le tempistiche per il ritorno in borsa. Anna Marino, Radio 24, il Sole 24 Ore. Spostiamoci sulle notizie dall'estero, parliamo di Venezuela, dove militanti chavisti hanno assaltato oggi l'Assemblea Nazionale, il Parlamento, mentre all'interno si stavano concludendo una cerimonia in occasione dell'anniversario dell'indipendenza. I militanti hanno fatto irruzione nel palazzo, lanciato razzi e hanno aggredito legislatori e giornalisti presenti per la cerimonia e alcuni deputati sono rimasti feriti. Sapete che è un paese dove da tempo ci sono violente proteste e anche quasi ogni giorno si contano dei morti tra i manifestanti. E siamo alla vicenda del piccolo Charlie, bimbo inglese di 10 mesi affetto da una malattia rara e incurabile, a cui il giudice ha deciso che dovrà essere staccata la spina, non potrà essere però trasferito in Italia per motivi legali. Sapete che in questi giorni si è offerto l'ospedale Bambin Gesù di Roma, l'ospedale pediatrico, ne abbiamo parlato anche qui a Effetto Notte con la presidente Marilena Enoch, e adesso però di nuovo si fa avanti. Tanto oggi il ministro degli esteri inglese Boris Johnson ha risposto ad Alfano, che ieri aveva detto cerchiamo di fare qualcosa, dicendo che non si può assolutamente trasferire il bambino. Però ci colleghiamo con Andrea Viali a Roma. Ciao Andrea. Ciao, buonasera. Dunque, appunto, la presidente dell'ospedale Bambin Gesù oggi ha rilanciato la presidente Enoch dicendo che si può applicare a questo bambino una terapia sperimentale con uno scienziato interno all'ospedale Bambin Gesù. Sì, esatto, Roberta, possiamo dire che nonostante gli appelli però che sono arrivati dal Vaticano e dall'Italia, sembra un po' naufragato il tentativo di portare a Roma Charlie. Lo dicevi, oggi il ministro degli esteri britannico Johnson ha risposto ad Alfano, al titolare della Farnesina, e gli ha fatto sapere che ragioni legali impediscono alla Gran Bretagna di accettare l'offerta che era arrivata dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù, che è di proprietà della Santa Sede. Il piccolo Charlie, lo dicevi, è affetto da una malattia incurabile, c'è questa sentenza, il motivo è appunto questa sentenza della Corte Suprema di Londra che, d'accordo con i medici dove Charlie è ricoverato, ma contro il volere dei suoi genitori, ha stabilito che per non farlo soffrire dovrà essere staccata la spina ai macchinari che lo tengono in vita. Sul caso, tra l'altro, oggi è intervenuta anche la Premier britannica May, la quale si è detta fiduciosa sul fatto che l'ospedale, appunto, dove Charlie è ricoverato stia valutando ogni offerta su nuove informazioni e, come appunto dicevi, proprio i responsabili del Bambino Gesù oggi hanno fatto sapere che i loro medici, che si occupano normalmente di malattie rare, sono al lavoro anche con altri esperti internazionali per mettere appunto un protocollo di trattamento sperimentale per il piccolo Charlie. Roberta. Grazie Andrea Viali. Ciao Andrea. Ciao. E passiamo alla politica. Nel Partito Democratico si guarda alla direzione di domani, mentre scontro il Senato sul codice antimafia. Stop and go oggi al testo in aula e il voto definitivo a questo punto ci sarà domani. Alla fine, dopo le polemiche sulle coperture, sul sequestro dei beni anche ai corrotti, il Senato voterà il codice antimafia, un voto che divide con Area Popolare di Angelino Alfano, che dà libertà di coscienza proprio per quella norma sui corrotti che estende ciò che già succede per i mafiosi. Così il senatore Nico D'Ascola. Devo però comunicare all'Assemblea che il gruppo al quale io appartengo ha deliberato di lasciare libertà di voto ai suoi componenti, che quindi loro decideranno di comportarsi secondo la loro personale coscienza. E arriva subito il no di Roberto Formigoni, sempre dello stesso gruppo: non voterò il provvedimento antimafia che presenta numerose contraddizioni e limiti. C'è anche la questione delle coperture. Il presidente della commissione bilancio Giorgio Tonini PD ammette l'errore nell'esaminare il testo. La norma errata parlava di copertura di 20 milioni per il triennio, ora invece verrà indicata l'esatta ripartizione della somma anno per anno. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E siamo al caso della quindicenne violentata dal branco a Pimonte, vicino Napoli, mesi fa. Bufera sulle parole del sindaco del paese, Michele Palumbo, che dice: è stata una bambinata. Poi si è scusato, ovviamente le sue parole sono emblematiche, al di là che si sia scusato, di tutta una atavica mentalità ancora molto pervasiva, e ce ne accorgeremo tra poco collegandoci con il giornalista della Sette, che è andato proprio a raccogliere queste parole, questo commento sconcertante del sindaco, e ci racconterà anche di quella che è la mentalità che fa parte un po' di questa collettività, e purtroppo non solo, a partire insomma da chi guida la comunità. L'omicidio di Ilaria Alpi. Luciana Alpi, madre di Ilaria, e il suo legale non si rassegnano e proporranno opposizione alla richiesta di archiviazione fatta nei giorni scorsi dalla Procura di Roma sugli omicidi dell'inviata del TG3 e dell'operatore Miran Rovatin, e sui presunti depistaggi che avrebbero fatto da sfondo all'inchiesta giudiziaria. E parliamo dell'ultimo saluto a Paolo Villaggio. Sono venuto dalla Sardegna per renderle omaggio. Siamo cresciuti con i suoi film. Nessuno vuole a lui, nessuno. Il saluto di Roma e dell'Italia all'attore, scrittore, amico di una vita. Prima in Campidoglio per La Camera Ardente, poi La Casa del Cinema per la cerimonia laica. Tanta gente comune, ma anche personaggi della cultura e dello spettacolo che l'hanno accompagnato nella sua carriera, da Enrico Montesano a Neri Parenti a Lino Banfi. Ma aveva detto a me che avrebbe parlato al mio funerale, ma mi ha anticipato. Adesso lui sta conservando il posto, però con calma. C'è anche un pezzo di politica ai ministri Franceschini e Pinotti, e poi Davide Casaleggio e Beppe Grillo, anche lui come Villaggio genovese. Al Movimento 5 Stelle l'attore si era avvicinato negli ultimi anni della sua vita. Lui era anche critico, non è che fosse così un 5 Stelle, lui era una personalità libera. Mio padre amava molto i 5 Stelle, racconta invece il figlio Pier Francesco, con il padre un legame che è diventato più stretto con il passare del tempo e con la malattia. Difficile, difficile. difficile averci un rapporto, perché poi sulle cose serie lui scherzava sempre moltissimo e poi era molto timido. E un ricordo che ho avuto che l'ultimo periodo aveva paura di rimanere da solo. E allora mi diceva spesso: stai qua, dormi qua. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. E vi devo anche avvisare che ci sono scioperi in vista. Domani è una nuova giornata di scioperi nel trasporto pubblico locale, proclamati da USB, Faisa, Confile e Sult CT, con disagi attesi per la circolazione di bus, tram, metro. Uno sciopero nazionale di 4 ore nel trasporto pubblico locale è stato infatti proclamato e verrà messo in campo con articolazioni decise a livello territoriale. L'incontro tenutosi oggi non è servito a scongiurare questa protesta. Nelle principali città le fasce di astensione saranno comunque diverse e potete poi documentarvi anche sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Almeno per quanto riguarda le principali città potete vedere gli orari. Tra le ragioni della protesta, spiega l'Unione Sindacale di base, quella di difendere il diritto dell'esercizio di sciopero nei servizi pubblici essenziali contro la politica delle privatizzazioni, le norme per la riorganizzazione dei servizi pubblici locali e delle aziende partecipate che prevedono fusioni, chiusure, liquidazioni e un esubero di personale, dicono i sindacati, di oltre 300.000 lavoratori. Siamo allo sport, il ciclismo, impresa di Fabio Aru al Tour de France. Il corridore sardo, fresco campione d'Italia, si è imposto per distacco nella quinta tappa a Blans de Bellefille, staccando tutti negli ultimi 3 chilometri. È stata durissima, dice, ma una grande soddisfazione vincere il Tour con la maglia tricolore, è il mio premio dopo una primavera difficile. E poi in chiusura il calcio, con tra colpi di scena e polemiche Maradona, che questa sera riceve a Napoli la cittadinanza onoraria. Ne parleremo, vedo già dei messaggi critici. Claudio scrive: grazie a Maradona si capisce a che livello di decadenza è ridotto il nostro paese. Che schifo, dice Claudio. E poi un altro ascoltatore: gentile signorina, mi viene l'uveite, signorina, signorina, dice, lei mi è simpatica e molto, ci può risparmiare la cronaca di un inutile personaggio che va a Napoli, sta ricevendo un premio inutile. Insomma, è pur sempre Maradona, anche se ci sono delle forti polemiche sul fatto che dovrebbe prendere un cachet da circa 200.000 euro questa sera per salire sul palco. Lui giura di no, poi c'è un braccio di ferro con il sindaco De Magistris. Insomma, ne parleremo, vi aspetto dopo la viabilità. 349-238-6666, il numero per messaggi WhatsApp, oppure la pagina Facebook di Effetto Note, che è lì per voi giorno e notte, alla quale potete aderire senza indugio. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Ve l'ho appena ricordate nel riassunto della giornata, Roberta Giordano sempre con voi e sempre dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 22, perché questa sia la vostra colonna sonora dell'informazione per arrivare a fine giornata e sapere tutto quello che è successo di più importante in Italia e all'estero. I vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. Vedo vari messaggi anche sulle parole sconcertanti del sindaco di Pimonte sulla ragazzina di 15 anni violentata. Laura dice: già partita una petizione per chiedere le dimissioni del sindaco, senza azioni per favorire il cambiamento culturale. Dice: questa mentalità non morirà mai. Il sindaco ha definito questa violenza sessuale una bambinata, quella del branco. E poi anche un ascoltatore, Lucio dalla Svizzera, che sapete che naturalmente Effetto Notte è internazionale, dice: questo sindaco deve dimettersi subito, povera ragazzina. E poi molti altri messaggi. Giovanna: si dovrebbe vergognare, un rappresentante delle istituzioni, un primo cittadino dovrebbe dare l'esempio, che si dimetta e non è degno di rappresentare il suo paese. Una cultura ottusa e maschilista dura a morire, dice. Esprimo tutta la mia solidarietà alla ragazzina e alla sua famiglia. Poi continuerò dopo con i messaggi, adesso dobbiamo passare al primo tema, ma vi ricordo anche i fatti principali per chi avesse acceso non puntualmente alle 21. Via libero alla legge sulla tortura, anche in Italia diventa reato, ma tante le astensioni durante il voto. Dietro fronte dell'Austria sui migranti, niente esercito al Brennero. Minniti, alla vigilia del vertice di domani di Tallinn, dice: l'Unione Europea ci ha ascoltato. È morto Joaquín Navarro Valls, storico portavoce di Wojtyla. E poi Johnson ad Alfano, il ministro degli esteri Alfano, sul caso del piccolo Charlie, dice: è impossibile portarlo a Roma, ma al Bambin Gesù si lavora a un protocollo sperimentale. E poi dati dell'Istat che dicono che il laureato è più precario dei diplomati. e poi anche la possibilità probabilmente nel 2019 di andare in pensione d'anzianità a 67 anni. La scure del piano europeo su Monte dei Paschi di Siena, ci saranno in questo piano 5.500 esuberi e saranno chiuse 600 filiali. E poi la rivoluzione della Volvo, dal 2019 solo auto elettriche. Quindi siamo sull'emergenza migranti ancora, con l'incalzante pressione, soprattutto negli ultimi giorni, del governo italiano sull'Unione Europea, che ieri ha presentato alla Commissione Europea un piano d'azione per cercare di allentare un po' sull'Italia questa pressione migratoria. I punti principali, ve li riassumo brevemente, di questo piano sono un impegno per un centro di coordinamento in Libia, la richiesta di un codice di condotta per le organizzazioni non governative, aree di salvataggio in Tunisia e Libia, più rimpatri dall'Italia, redistribuzione dei rifugiati, poi una squadra di reazione rapida di oltre 500 esperti in rimpatri della Guardia Costiera e della Frontiera Europea, e poi un aumento dei fondi destinati alle migrazioni. All'Italia si chiede di creare ulteriori hotspot per la registrazione dei profughi e migliorando la capacità di detenzione. Ieri però, ne abbiamo parlato, l'Austria aveva minacciato di schierare l'esercito per difendere i suoi confini al Brennero, annunciando che 4 mezzi corazzati erano già al Brennero. Poi abbiamo sentito un corrispondente del giornale Alto Adige che diceva: ma veramente sono stato al Brennero, oggi non c'era nulla, e oggi c'è stato l'atteso, come si sperava, dietro fronte dell'Austria, che ha detto, il primo ministro ha parlato con Gentiloni, ha detto no, non schiereremo nessun esercito al confine. Per noi oggi è lì la nostra Raffaella Calandra al confine, cara Raffaella, quindi tutto ciao, tranquillo? Roberta, ciao Raffaella. Sì. Assolutamente tutto tranquillo, come in realtà già lo si immaginava, già lo si capiva fin da ieri. Tutto sembra un déjà vu di quanto è successo già anche un anno e mezzo fa, quando l'Austria aveva fatto un'altra minaccia. Quella volta era stata di innalzare un muro anti-migranti, anche in quel caso tutto terminò in un nulla di fatto, come stavolta i 4 famosi Panzer, per dirla come li chiamano da queste parti, ossia i carri armati, sono rimasti parcheggiati all'interno della caserma di Kranebitten, che è praticamente all'aeroporto di Innsbruck, ad una quarantina di chilometri dal confine del Brennero, e lì sono rimasti, non sono appunto mai usciti da questa caserma, e l'Austria ha anche, diciamo, ridotto ad una sorta di equivoco oppure di preparativo ad un'eventuale emergenza, che ora non c'è, questa notizia trapelata ieri sotto forma di annuncio. Un'emergenza che da queste parti in queste ore proprio non c'è, perché c'è il traffico tradizionale del Brennero, camion, turisti, molti giornalisti in queste ore, ma di migranti devo dire davvero pochi. Oggi ne sono stati rispediti 3 dall'Austria in Italia, perché erano riusciti a passare in treno, ma poi sono stati rimandati indietro, come nei giorni scorsi alcuni erano stati rispediti anche dopo essere stati trovati tra le montagne, mentre provavano a passare a piedi tra le montagne. Una situazione sotto controllo, come ben sa chi, come una volontaria Zenib che abbiamo incontrato sui binari alla stazione del Brennero, della Onlus Voluntarius, che praticamente presta accoglienza a tutti quei migranti che vengono bloccati o dalle forze dell'ordine italiane, tante devo dire, oppure rispediti indietro dalla polizia tedesca. Ma la situazione è di gran lunga diversa da quella di 2 anni fa, quando c'era un forte afflusso, come ci ha raccontato lei stessa, come possiamo sentire. Sentiamola. Avevo un ragazzo del Guinea Conakry, un ragazzo del Sierra Leone, la prima volta per me, e una persona del Ghana. Sono stati spinti dall'Austria. Più o meno in media ogni giorno quanti ne arrivano? Sono giornate tranquille, insomma 4, 5, 6 persone, e certe serate anche 10, anche 15. Tutte persone che vengono fermate al momento del controllo dei documenti sul treno? Sì, la maggior parte sì, o sono persone che vengono rimandati dall'Austria. Provano a superare questo confine senza essere identificati. Ecco, sì, ma è molto difficile, ha un confine molto serrato, ecco. Tantissimi di loro non riescono a capire che niente documenti, non possono passare. Tanti di loro, precisamente le famiglie che vengono dalla Siria, dell'Iraq, dicono noi abbiamo il diritto di andare anche in Germania, ma non si può, insomma, usano anche i pullman, per esempio Flixbus o qualche altra cosa, ma vengono fermati. Persone che hanno fatto una camminata lunghissima da qua fino, insomma, in Austria e sono state riportate indietro. Questo è il momento della situazione, grazie a Raffaella Calandra dal Brennero. Ciao Raffaella, allora lì tutto tranquillo. Ciao, per il momento. Ciao Raffaella. Sì, assolutamente tutto tranquillo. Volevo tanto una piccola aggiunta fare, che ho incontrato andando dall'altra parte, in Austria, nei paesi austriaci, anche alcuni siriani che qui erano riusciti ad entrare ormai già 2 o 3 anni fa, prima che le maglie dei confini si stringessero ulteriormente, e loro, diciamo, devo dire, sono tra quelli che stanno seguendo con particolare attenzione tutta questa polemica, dibattito, proprio nella consapevolezza, devo dire, di essere stati almeno in questo passaggio più fortunati di chi invece ci sta provando in queste ore, in cui, diciamo, l'attenzione anche politica per le prossime elezioni di ottobre in Austria ha riportato Vienna a stringere ulteriormente i controlli al confine. Grazie Raffaella Calandra. Invece vi avviso che in Francia, la Francia sta aprendo i primi corridoi umanitari per rifugiati siriani e iracheni provenienti dal Libano. E qual è il dibattito politico in Italia però sulla questione migranti, visto che siamo noi il paese particolarmente sotto pressione? Allora, Minniti oggi ha parlato alla Camera, ha riferito alla Camera, e a proposito di questo dietrofront dell'Austria sentiamo che cosa ha detto. Di fronte all'idea di schierare le truppe al confine abbiamo risposto che non c'era un'emergenza, che la cooperazione tra le forze di polizia austriache e italiane era ottima, che Italia ed Austria avevano un'amicizia e hanno un'amicizia e una cooperazione straordinaria. Si poteva dubitare delle affermazioni del ministro dell'interno italiano, poi sono andate alle televisioni e hanno visto che al Brennero non c'era nulla. Stamattina ho letto le dichiarazioni del cancelliere austriaco. Prendo atto, noto pacatamente che forse avevamo ragione. E poi alla vigilia, appunto oggi, del vertice di domani a Tallinn sull'immigrazione dei ministri dell'interno, sentiamo Minniti sulla importante, dice, condivisione da parte dell'Unione Europea delle nostre proposte. È importante che Francia, Germania, la Commissione Europea hanno condiviso alcune nostre proposte. La prima che noi abbiamo avanzato, quella di un codice di comportamento delle organizzazioni non governative che operano con grande passione, con grande impegno nel Mediterraneo centrale. Ora saluto Barbara Fiammeri del Sole 24 Ore. Cara Barbara, buonasera. Buonasera. Allora, sappiamo che il dibattito è molto molto acceso nel nostro paese a livello politico interno. Abbiamo sentito Minniti, ministro dell'interno. Allora, sentiamo che cosa hanno replicato. Prima sentiamo Forza Italia con Brunetta, poi il Movimento 5 Stelle con Lombardi e la Lega con Molteni. Cominciamo da Brunetta di Forza Italia. Trovo i colleghi della sinistra del PD molto nervosi. Molto nervosi e molto preoccupati. Perché qui si gioca il futuro dell'Italia, che si basa sul vostro fallimento, il fallimento dei vostri governi, il fallimento della vostra maggioranza, perché è tutto ascrivibile a voi, tutto ascrivibile a voi, signori della sinistra. Quindi per Brunetta è tutto ascrivibile alla sinistra. Sentiamo il Movimento 5 Stelle e Roberto Lombardi. Siamo rimasti un'altra volta come paese col cerino in mano e lei viene qui a farci l'edizione delle 20 del TG, cioè non è serio francamente. I porti italiani vanno chiusi alle navi delle ONG che non esibiscono bilanci in trasparenza e che quindi non permettono di conoscere i loro finanziatori. Va subito inibito l'approdo dei nostri porti a tutte quelle imbarcazioni straniere impegnate in queste operazioni che non accetteranno la presenza della polizia giudiziaria a bordo, come scritto mesi fa in una nostra proposta di legge, quando per primi sollevammo il problema delle ONG e ci davate dei razzisti. Quarto, bisogna aprire corridoi umanitari. E poi sempre per le opposizioni, Molteni della Lega. L'Italia è diventata un centro attrattivo di immigrati. Avete trasformato il nostro paese in un grande centro d'accoglienza. E ministro, andate ad approvare, scelta scellerata e folle, lo ius soli. La cittadinanza, ministro, è una cosa seria, perché dà un diritto fondamentale, un diritto civile fondamentale, che è il diritto di votare. La cittadinanza non è uno strumento per integrare, la cittadinanza è il percorso conclusivo e l'approdo di un percorso di integrazione. Barbara Fiammeri, hai sentito, il dibattito è molto acceso, la situazione è difficile, la pressione migratoria è forte, vedremo domani al vertice di Tallinn se vengono fuori delle proposte, delle soluzioni concrete nei fatti, però diciamo al di là di opposizione, maggioranza eccetera, qual è la soluzione? Qualcuno ce l'ha in tasca, una soluzione vera, definitiva? Che ne pensi tu di questi commenti? Allora, la soluzione non c'è, perché il problema è che, essendo noi una penisola, come è noto, e quindi affacciandoci sul mare, noi non possiamo mettere muri a meno di non decidere di farli affogare. Non c'è dubbio però che la situazione nasce, tutto questo disastro, nasce da una scelta scellerata, quando si decise di bombardare la Libia, di far fuori Gheddafi, che conteneva no, tutte le pressioni interne, diciamo, come tutti i paesi, poi ci si allea anche si stabiliscono rapporti diplomatici anche con i dittatori, certo. E diciamo, con la Libia noi avevamo un rapporto privilegiato da sempre, storicamente l'Italia aveva un rapporto privilegiato con la Libia, anche di interessi economici, e come ricorderete lì ci fu la scelta appunto dei francesi, in particolare in testa, appoggiati sì, dagli inglesi e dagli Stati Uniti, infine dagli Stati Uniti, di attaccare la Libia. È evidente, noi eravamo in una fase molto di debolezza, era la fase finale del governo Berlusconi, e diciamo non abbiamo toccato palla, ci siamo accodati e adesso ne subiamo le conseguenze, perché poi il punto principale è che la stragrande maggioranza di questi migranti parte dalle coste libiche, e la Libia è in questo momento un paese dove c'è una guerra civile, dove ci sono delle tribù che si scontrano le une contro le altre armate, c'è una guerra, e quindi è difficile riuscire a governare da qui, dall'Italia, dalle nostre coste, una situazione che parte da un paese che è devastato. E anche ad avere lì un referente autorevole, no? Cui, certo, abbiamo visto appunto che l'attuale governo comunque è un governo che governa una parte del paese, e per di più la governa fino a un certo punto, perché poi la Libia da sempre è uno stato, una nazione che è fatta di tribù, e soltanto diciamo con Gheddafi erano riusciti a trovare un'unità nazionale, ma insomma, come è scomparso un po' quello che è successo in Jugoslavia con la fine di Tito, la disgregazione, no? Cioè, totale. Barbara, per chiudere, secondo te in un momento così di forte tensione su questo tema era opportuno mettere diciamo in scaletta lo Ius Soli? Ma io su questo ho una posizione che oggi dico personale. Cioè, lo Ius Soli, con tutto questo disastro della immigrazione, non c'entra niente, e chi lo fa lo strumentalizza, perché parliamoci chiaro, lo Ius Soli è un provvedimento che riguarda il riconoscimento della cittadinanza a minori che sono qui in Italia da diversi anni, hanno studiato in Italia, parlano molto spesso l'italiano meglio degli italiani o i dialetti, e quindi, cioè, non ha niente a che vedere con le orde che vediamo arrivare sulle nostre coste e nei nostri porti. Quindi le due cose andrebbero divise. Sì. Dopodiché era il momento, questo è un provvedimento che sta all'attenzione del Parlamento da diverso tempo. Ripeto, per me le due cose non sono da scendere, chiarissimo. Non c'entrano l'una con l'altra, non c'entrano niente. Invece avrebbe molto più senso andare a gestire la situazione delle ONG, perché lì effettivamente, cioè, in questo momento noi siamo sotto pressione, cioè da un lato i migranti, dall'altro le navi delle ONG, che chiaramente, cioè, anche facendo del bene, come posso dire, però non c'è dubbio che se sai di essere raccolto in mare hai più propensione a fare questo viaggio difficile piuttosto che sai che rischi di comunque morire. Vedremo Barbara Femeni domani anche su questo codice per l'ONG, che cosa verrà fuori dal vertice di Tallinn. Grazie Barbara Femeni, buon lavoro. Buonasera. Ciao Barbara. Intanto vedo i vostri commenti sempre sulla pagina Facebook di Effettonotte e al 349-238-6666 questo ascoltatore o ascoltatrice chiede dove si sottoscrive la petizione per le dimissioni del sindaco di Pimonte, di cui parleremo tra pochissimo. Un altro ascoltatore dice sicuramente il sindaco non ha figlie, che non è una scusante, ma quella povera ragazzina un'esperienza devastante. Poi qualcuno che si chiede se succedesse a lui o una sua figlia, un suo figlio, insomma, che cosa direbbe. 349-238-6666, pagina Facebook di Effettonotte, ci sentiamo tra pochissimo proprio su questo argomento. Vuoi conoscere le dinamiche e tutti gli aspetti professionali del mondo della radio? Autore, redattore, conduttore, produzioni audio e declinazioni web e social. Se una di queste è la tua strada, sintonizzati e frequenta il Master Part-Time in Content and Management di Radio 24, RDS e 24 Ore Business School. Un percorso innovativo per fornire strumenti professionali a chi ha iniziato o vuole iniziare a lavorare nel mondo della radio. A tua disposizione i massimi esperti del settore per una formazione completa ed esclusiva. Info su radio24.it. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state seguendo Effetto Notte avete scelto il posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Abbiamo parlato di diversi temi, adesso ci concentreremo su questa vicenda che vi anticipavo all'inizio e sulla bufera scoppiata sulle parole del sindaco di Pimonte. Intanto continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666, vedo molti messaggi su questo argomento. Vi ricordo molto velocemente prima i titoli. Migranti, l'Austria ci ripensa, niente esercito e controlli al Brennero. Minniti nell'informativa alla Camera dice bene l'appoggio europeo alla nostra proposta. È morto Joaquin Navarro Valls, a lungo direttore della sala stampa vaticana. Tortura, sì, definitivo dell'aula della Camera, il disegno di legge che introduce nell'ordinamento italiano questo reato. E poi Monte dei Paschi, la scure del piano europeo, 5.500 esuberi e via 600 filiali. Il caso di Charlie, il ministro degli esteri britannico Johnson risponde ad Alfano, dice impossibile portare il bambino Gesù, e l'ospedale pediatrico di Roma si fa avanti offrendo una terapia sperimentale. Scioperi, domani sciopero del trasporto pubblico locale, potete trovare alcuni orari delle città principali sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per il calcio, tra colpi di scena e polemiche, questa sera Maradona la cittadinanza onoraria a Napoli. E adesso di cosa parliamo? Ieri vi ricordate che tra i temi di Effetto Notte avevo anche parlato di questi fatti di cronaca che purtroppo ritornano, questi episodi di branchi di maschi minorenni che violentano le loro coetanee, anche molto più piccole di loro. Avevo citato alcuni casi, l'ultimo proprio quello che è emerso ieri da Bari, di questa ragazzina dodicenne che è stata violentata per tanto tempo ripetutamente da minori tra i 13 e i 17 anni, lei indifesa, terrorizzata per tanto tempo, non è riuscita insomma a reagire, anche perché la ricattavano, la minacciavano, le facevano violenze ancora più umilianti, finché ha trovato il coraggio di dirlo ai genitori, che poi ne hanno parlato i carabinieri, insomma questi sono stati fermati. Ma il caso più emblematico di questo tipo di violenza è quello di una ragazzina di 15 anni di Pimonte, vicino Napoli, che pure ieri ho ricordato parlando di questi episodi. Però questo è particolarmente emblematico perché lei, questa ragazzina, anche lei è stata violentata da un branco di minori ripetutamente. Dopodiché, lei, pensate, era andata, tornata dalla Germania con la famiglia a Pimonte perché lì era nata, perché volevano restare, tornare di nuovo in Italia e qui restare, se non che appunto è successa questa cosa orribile, trovò poi il coraggio di denunciare i suoi aguzzini e dalla parte delle istituzioni furono promessi supporto, aiuto psicologici che però non sono mai arrivati, e per questo lei e la sua famiglia, per riguadagnare un minimo di serenità, anche se ovviamente il suo equilibrio psicologico, possiamo immaginare, è stato distrutto, sono tornati in Germania, cioè sono dovuti ritornare all'estero dopo questo fatto terribile. Allora, L'aria che tira estate, che è un bel programma di La 7 della mattina, ha mandato un suo inviato a Pimonte, questo paese vicino a Napoli, per fare un'inchiesta su questo caso. E sentite che cosa ha detto all'inviato della 7, cioè a Roberto D'Antonio, il sindaco di Pimonte Michele Palummo, su questa terribile e spregevole violenza. Sentite cosa ha detto. non lo vogliamo chiamare, definire bambinata, forse. Bambinata? Forse il termine, un termine. Uno stupro di gruppo. È successo, è un fatto isolato, purtroppo. Non è... Lei l'ha detto che è una bambinata. Ma sono tutti minori. Lo so. Dai minori che cosa si può aspettare? Che violentino una ragazza? No, nel modo più assoluto, è successo, ormai è passato. E diciamo, intanto saluto Roberto D'Antonio, giornalista della Sette. Ciao Roberto. Ciao, buonasera a tutti. Diciamo che purtroppo queste dichiarazioni, fatte anche un po' con questa sufficienza, purtroppo fotografano molto probabilmente, poi tu sei stato sul posto, adesso ci racconterai, diciamo, la mentalità, diciamo il contesto sociale in cui questa cosa è avvenuta. Sì, no, visto che lui è il primo cittadino che conduce la collettività, si dice questo in questo modo. Sì, no, ma io ovviamente appena ha detto quella frase una bambinata sono rimasto abbastanza perplesso, cioè che non è che siamo lì con il cecchino aspettando lo scivolone. Ho ribadito, come ha detto una bambinata, pensando che ho sbagliato termine, non volevo dire questo. Invece non è stato così, è continuato. Allora ho capito che dietro questo molto probabilmente ci stava proprio, a prescindere dall'attenzione, dalla difficoltà di parlare, c'era proprio un modo di pensare che puntava prima di tutto a salvaguardare gli 11 ragazzi. Ed è qualcosa che ho trovato un poco in tutto il paese, cioè questa profonda attenzione di recuperare l'immagine, il ruolo di questi 11 ragazzi, sminuendo magari quello che era successo. Cioè, in questo caso le vittime erano considerate i carnefici, vittime della stampa, vittime del solito perbenismo. Questo è quello che consideravano lì. Ho trovato una situazione abbastanza difficile in paese, che non è che era solo il sindaco che ha definito una bambinata. È stato poi un riflesso di tutto, nessuno voleva parlare, ma senza differenza di sesso, donne, uomini, nessuno rispondeva, e chi rispondeva minimizzava. Ed era pazzesco, cioè ciò che mancava in tutto questo era la ragazza, la vittima. È veramente stato imbarazzante, perché io poi sono un uomo del sud e lì ci sono ritornato dopo un anno, perché ero andato pure a fare un servizio nei giorni proprio successivi alla violenza carnale. E ho ritrovato la stessa situazione, forse esasperata. Terribile, no? Perché questo non dà speranza, evidentemente è talmente radicata questa mentalità, Roberto D'Antonio, ma evidentemente è una storia vecchia, vecchia di secoli, nel senso ritorna sempre la solita questione che quando la donna viene violentata in realtà lei è, diciamo, no, quella che o ha provocato o comunque sono da difendere come poveri ragazzi o bravi ragazzi i suoi violentatori, no? È sempre lei un po' il corpo estraneo da espellere. Adesso lei se n'è andata in Germania con la sua famiglia, se n'è andata e gli altri nel paese, ci stai dicendo, stanno difendendo, minimizzando. Sì, ma no? C'è oltre, perché c'è uno zoccolo duro che la pensa in una maniera tragica, pessima, ignobile, e la maggioranza è una maggioranza silenziosa che non vuole problemi, non vuole fare accesi. Di conseguenza fanno proprio un ragionamento algebrico, matematico, 11 è meglio di 1. Di conseguenza che cosa facciamo? Recuperiamo, facciamo stare più tranquilli 11 famiglie, 11 persone, 11 nuclei o 1? E la cosa che mi ha sorpreso, che poi c'era appunto nel servizio, andato nella prima puntata dell'Aria d'Estate, era il discorso che dai tavolini del bar si alzavano senza rispondere, cioè alle domande sulla ragazza nessuno rispondeva, ed era una follia collettiva in quel momento. Io sono convinto che, presi magari singolarmente in altri contesti, molte di quelle persone magari sarebbero pure disposte a riconoscere la gravità del fatto, però nell'ambito del nucleo, del paese, del branco del paese. Del branco, bravo, finisce che fanno branco anche loro, anche loro. Anche loro, che stavo anche pensando, loro, era un branco enorme. Terribile, terribile, e ti ringrazio comunque di avercelo raccontato. Ho visto vari interventi di politici non di primissimo piano, nel senso non gli esponenti più esposti, però evidentemente qualcosa forse potevano già fare quando è successo il fatto e quando la ragazzina aveva bisogno di altro supporto. Grazie intanto, almeno ci sono i giornalisti come Roberto D'Antonio di La Sette che fanno queste cose, che fanno queste inchieste. Grazie, grazie Roberto. Grazie a voi e buon lavoro. Ciao, buon lavoro a te. Oh, vedo anche, a proposito, al di là dei politici, il commento del vicepresidente della Croce Rossa Italiana, Gabriele Bellocchi, che dice al sindaco che ha detto: che vogliamo aspettarci da questi minori? Dice: noi dai minori ci possiamo aspettare quello che noi gli diamo in termini di educazione e di rispetto per l'altro. Se questi sono gli esempi addirittura istituzionali, non ci si può stupire che poi una vicenda così grave come uno stupro sia derubricata a fatto minore. Ci sentiamo tra pochissimo. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E ora abbiamo ancora qualche minuto, quindi corro, Roberta Giordano sempre con voi. Vi ricordo che le notizie principali sono il via libera alla legge sulla tortura, quindi sarà reato anche in Italia, il dietrofront dell'Austria sui migranti, niente esercito al Brennero, e poi è morto Joaquin Navarro Valls, storico portavoce di Wojtyla. Abbiamo appena parlato della ragazzina violentata dal branco a Pimonte e della bufera sulle parole del sindaco che ha detto è stata una bambinata la violenza del branco. E poi per gli scioperi domani in varie città, scioperi del trasporto pubblico locale, troverete una breve lista sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Ma adesso parliamo di Maradona. E ne parliamo con la nostra Laura Viggiano da Napoli. Ciao cara Laura. Sì, perché stasera tu dovresti essere in mezzo a questa grande festa per il conferimento della cittadinanza onoraria a Diego Armando Maradona lì a Napoli, diciamo, tra polemiche, colpi di scena, questa storia del cachet, il braccio di ferro col sindaco su Piazza Plebiscito, il municipio. Ci dici un po'? Beh sì, insomma, tutto questo ha comportato una serie di cambiamenti. In primis che la cittadinanza onoraria fosse consegnata direttamente a Palazzo San Giacomo, sede del comune. Era atteso alle 20, ma è arrivato con un'ora di ritardo rispetto all'appuntamento fissato, anche se in realtà comunicazioni ufficiali sull'orario non ce n'erano state. Adesso Maradona è il Bibede Oro, è a tutti gli effetti un cittadino napoletano. Il sindaco gli ha consegnato la pergamena, Maradona ha ringraziato tutti, anche quelli che non avrebbero voluto, ha detto, la sua cittadinanza onoraria. Perché era molto divisa la città, no? De Magistris stesso diceva: non mi aspettavo che fosse così divisivo Maradona a Napoli. Sì, ci sono state molte polemiche. Diciamo che si nota anche l'aspetto all'organizzazione della società del calcio Napoli, se vogliamo dire la tutta, insomma, c'era probabilmente, insomma, qualcuno si sarebbe aspettato, insomma, che tutto questo fosse organizzato in modo diverso, no? Quindi questo probabilmente è stato un elemento. E in più poteva esserci anche una duplice visione sull'opportunità di organizzare una manifestazione del genere. Laura, senti, ma sulle voci sul cachet che doveva sfiorare quasi 200.000 euro da dare a Maradona per salire sul palco? Questo è stato un altro motivo praticamente di polemica e di riflessione per i napoletani, ovviamente, insomma, perché ci sono voci che girano, insomma, e sembrano abbastanza fondate, del fatto che praticamente gli sponsor che hanno sostanzialmente finanziato e comunque, insomma, creato questo spettacolo, realizzato lo spettacolo in Piazza del Plebiscito, pagheranno anche un cachet di circa 180.000 euro a Maradona e al suo manager. Quindi ovviamente un tassello e un altro, insomma, hanno creato una situazione abbastanza imbarazzante, per cui a un certo punto De Magistris ha voluto scindere i due momenti e quindi fare una parte istituzionale e poi la parte dello spettacolo. Devo dirvi, c'è un'atmosfera di festa, di una piazza blindata, ma comunque non è una piazza piena. Sono attese per motivi di sicurezza, è una piazza che comunque può contenere moltissime persone, 30.000 diciamo supporters. Quante ce ne saranno più o meno, Laura? Poco più di 5.000. Poco più di 5.000? Sì, insomma, che cosa, sì, insomma, guardando di qui dal lato della piazza, insomma, per riuscire a vedere un po' la macchia. Quindi meno del previsto per Maradona. Meno del previsto, sì. Molti meno del previsto. Bene, Laura Viggiano, sì, dici, volevo aggiungere proprio 10 secondi, no, prego. No, non dimmi. No, allora, Laura, ti lascio alla festa e con anche le sue polemiche. Ormai l'onorificenza è data, la questione è stata ratificata. Grazie a Laura Viggiano da Napoli. Noi ci dobbiamo proprio lasciare ratta come la folgore. Cedo la linea perché poi ci risettiamo brevemente per gli aggiornamenti alle 22.